Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara. Stasera abbiamo una strumentazione d'eccellenza, 600 km da Rieti. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Rock Wave con Andrea Salini e la sua band. Hai fatto buon viaggio? Sì, buon viaggio, da Terni, sole fino qui in Veneto. Bene, questo è molto positivo. Che bello, 600 km per suonare il rock, è una bella cosa, cosa dici? Sì, un po' nello stile della musica, insomma. Esatto, la nello strada, stile della musica. E il fatto di andare, insomma. Di andare sempre e continuamente, che bisogna andare sempre avanti, perché suonare, bisogna suonare dappertutto, sempre in continuazione. Esatto, ovunque, comunque, sempre. È vero. Sempre dal vivo. Presentiamo i due giovanissimi componenti della tua band. Con molto piacere. Allora, qui al basso abbiamo Daniele Tedeschini e alla batteria, giovanissimo, ventenne, il fratello, Stefano Tedeschini. Benissimo, e tu sei Andrea Salini, che fa praticamente il tuo gruppo, praticamente. Sì, sì, ormai questa è la mia band, io lavoro con questi ragazzi da circa 3 anni, li seguo da vicino e spero di poter suonare con loro, e questo accade ormai, ripeto, da tempo, e miglioro io con loro, e cerchiamo sempre di studiare e suonare dal vivo, perché quella è la motivazione reale. Suonare dal vivo non è come suonare a casa o certo, studiare, suonare dal vivo è la caratteristica di Rock Wave, il programma del mercoledì. Stasera abbiamo, come sempre, in regia Michele Toson, e vi guiderà fino verso la mezzanotte. Sarà una cosa meravigliosa. Benissimo. Come nasce il progetto, Andrea, di questa band? Allora, la band, dunque, io già conoscevo questi ragazzi da tempo, da prima che uscisse il disco. Abbiamo iniziato a provare così, perché all'epoca suonavo anche con un altro gruppo, con i Barricata 22. Sì, esatto. Che genere facevate con i Barricata 22? Prevalentemente proponevamo cover dei Gang. Ah, perfetto, gruppo. Perché qua c'è un discorso con i Gang. Non possiamo dire che sia un tributo, ma un omaggio alla band di Gang, sì, questo disco. Sicuramente, sicuramente. Diciamo che il mio percorso da musicista, così, da chitarrista, nasce un po' alla rovescia. Nel senso che la prima volta che sono salito su un palco dal vivo l'ho fatto con i Gang. Perfetto. Quindi fratelli un battesimo, Severini, allora. Esatto, me lo ricordo benissimo. Eravamo ad Antella, la Casa del Popolo, nel 2003, e da lì poi, risceso da quel palco, sono risalito su palchi di ogni genere a qualsiasi ora, anche per suonare uno o due brani. Quindi un battesimo, un accoglienza, diciamo che dopo diverse porte chiuse in faccia è stata una band che mi ha accolto umanamente. Marino Severini e Sandro Severini è la band che da tanto tempo continua un percorso assolutamente autonomo. Questo sì, autonomo sotto tutti i punti di vista. Tutti i punti di vista, esattamente. Però fa gruppo, perché l'amicizia e il gruppo sono fondamentali per Marino e la band, chiaramente, dei Gang. Sì, sicuramente. La cosa che io ribadisco spesso durante il tour quest'anno, mi è capitato di fare altre interviste, che io personalmente, ma adesso anche loro, ho imparato un po' lo stile, perché poi Marino diceva sempre che il rock and roll è un po' come cammini. Certo, hai ragione. Con le varie sfumature. E quindi abbiamo imparato il loro stile, il loro metodo di lavoro, dalle cose basilari, come si imbraccia una chitarra, come va messo un amplificatore sul palco, eccetera. Sì, sì, sì, ma anche come va caricato un furgone. Beh, come no, è importante caricare gli strumenti. E il tuo rock and roll si estrinseca nel tuo album Dr. Hyde e Mr. Hyde. Non, attenzione ragazzi, non Dr. Jack e Mr. Hyde, ma Dr. Hyde e Mr. Hyde. Quindi un verso solo, sì, Andrea. Sì, sì, diciamo una facciata sola, anche se, diciamo, io lì quest'album l'ho considerato un po' come una sorta di tesi, nel senso che dopo 10 anni e più passati a studiare la musica seriamente, ho capito che in fondo le varie forme d'arte, anche la musica, è quello di tentare di riportare quello che c'è in natura, no? Il dualismo, il giorno e la notte, certo, certo, caldo e freddo. E quindi secondo me il rock and roll, inteso come termine largo del termine, che sia una ballata, che sia un brano di hard rock, fa tanti giri e racconta alla fine sempre la stessa storia, quindi due profili ma un volto solo, insomma. È un volto solo. Adesso, come sempre, come è nostra tradizione, apriamo la finestra del disco e sentiamo il primo pezzo che hai scelto nella scaletta. Ti ricordi il titolo? Credo Mamma Roma, la traccia numero 7? Esatto, mi conferma Michele. Questo è un brano dedicato 7. Ad Anna Magnani e Pasolini. Perfetto, lo sentiamo allora. Grazie. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, un pezzo molto bello con d'atmosfera, possiamo dire questo, Andrea, cosa dici? Sì, sì. Volutamente d'atmosfera. Sì, in realtà questo è un giro di chitarra che mi è venuto in maniera spontanea, e pensando al film, il giorno dopo avevo messo su il film, era in estate, certo, e sono stato colpito anche da alcune scene, da alcuni quartieri che avevo visitato di Roma e che adesso... uno quando lì vede i centri commerciali, palazzi uno legato all'altro, invece lì vedi poche case e prati, certo, a non finire. Poi sicuramente la storia, Anna Magnani, la musica del film mi ha colpito molto e ho cercato con la chitarra classica di riprodurre come volevi, come pensavi di riprodurre determinati momenti del film. Sì, quindi con un cedere un po' ipnotico della strofa in minore, in si minore, per poi trasformarlo tutto come quando un po' si dilatano le nuvole e esce fuori il sole all'improvviso. Certo, certo. E ho improvvisato metà dell'assolo in sala d'incisione, insomma. Chi ti ha dato una mano? Amalgamare i suoni è Francesco Caporaletti. Buonasera Francesco, ci sei? Buonasera a voi. Buonasera, che è il direttore artistico del progetto, Francesco, cosa dici? Sì, sì. Direttore artistico, una parola grande. hai coordinato il progetto, possiamo dire questo, Francesco? Francesco è, sì, è il bassista della gang, tanto per dire qualcosa. Dimmi, Francesco, allora, come mai hai conosciuto Andrea e hai portato avanti questo progetto? Ma diciamo con Andrea ormai ci conosciamo da parecchi anni, lui veniva sempre, cioè, viene tuttora e spesso ai concerti della gang, quindi è uno di famiglia, diciamo, quindi più che un amico, quasi un fratello. E quindi, cioè, mi aveva proposto di fare questa cosa qui in tutta tranquillità, perché comunque è stata una cosa fatta, diciamo, proprio a livello casalingo, se si può dire così, perché è stato registrato in, noi chiamiamo il bunker, in realtà è un garage piccolissimo, sotto un palazzo, è stato fatto così, proprio con i mezzi artigianali, abbiamo fatto io, e vabbè, Andrea ha messo tutto, diciamo, il materiale, quindi c'è, cioè, tutte le canzoni, poi noi le abbiamo rielaborate insieme a Fabio Verdini, che anche lui è il tastierista dei Gang, siamo amici da vecchia data, e abbiamo fatto questa cosa in massima tranquillità e serenità, senza grosse pretese, però alla fine è uscito un buon lavoro. È uscito bene, Andrea. Francesco, cosa dici? Sicuramente è uscito bene. Sì, ma più che altro se si può notare la semplicità, nel senso che comunque... Ripeto, delle volte, sai, si fa studio, io per esperienza, quando ho fatto distribuire i gang, quindi si fa studio magari con un'idea, bisogna fare quello, e poi invece capita che escono fuori altre cose. Così è stato con lo stesso discorso con Andrea. Ripeto, la cosa bella è stata che è stato fatto tutto con massima tranquillità e in modo del tutto sereno proprio. Quindi c'era il feeling giusto. È uscito fuori questo. C'era il feeling giusto, Francesco, assolutamente. Sì, ma ripeto, è stata una cosa molto, molto casuale. Andrea aveva voglia di fare sto disco e non sapeva a chi rivolgere, cioè, tra virgolette, siamo amici, quindi ha detto, okay, ragazzi, facciamo una cosa, buttiamo su qualcosa, e abbiamo lavorato. Ma ci sono le sfaccettature, cioè, per esempio Fabio che suona il sitara, che è stato suonato praticamente lì sotto il garage, con dei mezzi anche non proprio da studio di stazione, proprio con un classico computer, però poi tutto è stato mixato in uno studio di stazione un po', diciamo, più serio, e quindi il risultato è questo qua. Però ecco, la cosa è tutto quello che cercavamo di fare e di mettere nelle canzoni, è quello che voleva trasmettere Andrea praticamente su un discorso suo personale, il fatto che comunque viene da una terra molto, tra virgolette, un po' messa male, ma non nel senso, è un posto bellissimo, però a livello musicale sono pochi locali, queste cose qua, quindi io lo dico sempre a lui, c'è una grinta incredibile, perché io, cioè, noi abitiamo qui nelle Marche, quindi ci sono più spazi, più possibilità, la sua zona lì, Rieti, la zona lì, ci sono pochi locali che cercano di mettere in mostra i gruppi, quindi cercate un attimino di tirare fuori le idee di ragazzi. Però ecco, è stato un buon progetto e sono felice che Andrea lo porta avanti, avendo fatto tutta questa strada, quindi appunto ci tiene particolarmente. Esattamente. Poi è venuto, ha fatto ben 600 chilometri stasera. Lo so, quindi vuol dire che ha voglia, che ha tanta voglia di far sentire il suo progetto. No, lo so, ma infatti su questa parte, su questa cosa qua, io sono felice perché, ripeto, è una cosa che lui ha voluto con tutte le sue forze. Hai dei ragazzi giovanissimi che comunque gli danno una mano, e questo è una cosa bella. Sappiamo un po' come sono le difficoltà per mettersi un attimo in luce per quanto riguarda la musica, generalmente nella nostra, cioè l'Italia, quindi lo invidio da una certa parte, ecco, un po' invidioso, però è stato fatto un bel lavoro per quanto ci riguarda, poi dopo sarà la gente a valutare. Però ripeto, lo spirito è quello giusto, perché comunque escono dal garage per andare a cercare di farsi vedere in giro e sentire in giro, più che altro, perché proprio per i ragazzi, via. E giustamente Andrea diceva che ha preso lo spunto dallo spirito vostro, spirito della vostra band, della gang, chiaramente, lo spirito di portare avanti un discorso, signore, sempre. Sì, beh, comunque io sono 15, quasi 16 anni che sto con i fratelli Severini, e ho girato l'Italia per lungo e per largo, e quello che comunque riescono a trasmettere loro è una cosa molto positiva, cioè nel senso che loro non si sono mai, comunque, diciamo tra virgolette, commercializzati, comunque sono andati sempre per la loro strada, e questo comunque in tot di anni, loro sono più di 30 anni che suonano, hanno portato dei frutti, hanno la loro nicchia di pubblico, quindi cioè sono e per me è stato un grosso piacere e una grossa esperienza. Ho avuto altre esperienze, però questa diciamo che tuttora è la più bella che ho avuto a livello artistico musicale. Mi ha arricchito parecchio, conosci tanta gente, ti confronti con diverse realtà, e un bel discorso, diciamo. E Andrea ha fatto parte sempre della nostra famiglia, perché veniva sempre ai concerti, si è fatto anche lui altre migliaia di chilometri per venire a sentirsi e stare insieme a noi. Siamo tutti, diciamo, ecco, la famiglia proprio nel vero senso della parola. Musica fa famiglia, M maiuscola, musica con la M maiuscola, cioè un intreccio di interessi, ma che porta avanti il discorso del rock. Suonare, diceva Andrea, suonare, sì, quello sì, essenziale. Ma comunque la cosa più, io in questi anni quello che mi è riuscito un attimo di vedere e capire è che comunque l'umiltà è la cosa che alla fine paga. Ho avuto l'onore, Andrea lo saprà, sono le stesse volte che io sono un amante molto degli anni 70, conosco le persone di Ampese e di Parco, ci sono suonato insieme 10 volte, Donetta, sono persone che comunque di un'umanità incredibile. E infatti un attimo in Italia, quando vedi, l'opposto, vedi certi personaggi che magari con poco... Si sono cresciuti velocissimamente, si sono dimenticati di quello che erano prima. No, vabbè, perché comunque sembra un percorso, poi ripeto, l'umiltà è la cosa, quello che ho visto in questi anni è cercare sempre di stare coi piedi a terra, mai alzarli un attimino, perché sennò dopo prendi proprio la botta in testa. E Andrea, ne hai visti tanti dai concerti della gang, quindi sicuramente. Sì, no, ripeto, quella gang se suona dal posto da 100 persone è capitato a suonare avanti a 5.000 persone, quindi... Però, ecco, ripeto, è sempre... io dico sempre, come dice anche Marino, ci pagano pure per fare questo, quindi c'è il massimo di questi tempi e poi, quindi... Bene, bene, è stata una piacevole conversazione. Andrea, cosa vuoi dire? Grazie. Ma io intanto saluto Francesco, lo ringrazio. Prima, prima parlavamo con Maurizio e gli spiegavo che la registrazione di questo disco è stato un motivo di grande crescita, perché stare a contatto con musicisti di questo calibro, e posso sottolineare quello che diceva Francesco, loro stanno moltissimo coi piedi per terra. Io li ho visti, noi arrivavamo ai concerti dei gang alle 3 del pomeriggio, un rapporto umano del massimo rispetto coi fonici, coi attrezzisti, insomma è gente che rispetta l'uomo prima e poi passano direttamente ai fatti, cioè queste sono persone che quando collegano, nel caso di Francesco, il basso all'amplificatore, suonano, poi fanno i numeri. E aver partecipato alla registrazione del mio album insieme a loro è stato un motivo di grande crescita. Posso dire così, Francesco è un bassista, ma suonare la chitarra acustica per me è stata un'accelerazione dopo la registrazione del disco, avendo visto lui, perché insomma lui è stato un direttore artistico, altro che, lui dice così perché è umile, però ha fatto i cori, credo abbia suonato anche la chitarra slide collegata, questo è un aneddoto, a Leslie, perché lì per lì non c'era un amplificatore, quelle cose così geniali, ha fatto i cori, insomma. Vabbè, ci si arrangiava, dai. Sì, diciamo che ha scaricato lì addosso, secondo me era come una mina innescata, un po' come quelle che mette Will Coyote, cioè come gli è stata data la possibilità di esprimere al massimo tutto quello che ha imparato. Delle 6 o 7 canzoni che avevo scritto inedite le ha portate insomma al massimo splendore, per quello che è la loro inclinazione, che io perché noi ci siamo messi d'accordo e Francesco mi ha detto: Andrea, mi ricordo andammo in un paesino in Abruzzo vicino Sulmona e mi disse: questa cosa la facciamo sicuro. Dice: deve avere fiducia in me. Io ho fatto così e insomma non ho messo bocca, ho imparato e basta, ecco. Questo, posso dirgli grazie soprattutto per questo, non solo perché ha suonato, perché uno chiama una persona, no? Però lui insomma, standogli vicino, è uno che Francesco c'ha di bello, che è molto molto pignolo, molto preciso sul lavoro. Poi quando andavamo a cena fuori ci non era più pignolo allora. No, lì no, nel senso che era la parte più interessante. Lui è una persona che sa distinguere bene il lavoro dal divertimento. Certo, questo certo. Non è facile, perché poi i musicisti sono personaggi anche strani. Invece lì sono commosso Andrea, no? No, ma è vero, io lo, cioè Maurizio lo diceva anche prima. Ma dai, non ci conosciamo. Insomma, ecco, bene, voglio dire, io so, potrei essere quasi uno studioso dei Gangli. Ho visto più di 100 concerti, da Frosinone fino a Bergamo, e l'ho visto con Ian Pace, l'ho visto, sono musicisti veramente bravi. Dovrebbero avere molto di più, molto più essere messi in vista molto di più di quello che, però quella è un po' una scelta loro, loro sanno il fatto loro, insomma. Certo, certo. No, ma quello non è problema. Andiamo per la nostra strada, Andrea, vai tranquillo. Sì, sì. E poi sono strade che si incontrano spesso. Ma sì, ma noi ci incontriamo spesso. Adesso un po' di meno perché suoniamo anche noi, ma prima bene, meglio. Magari e Marino meglio. Ce lo dice, allora. Io quando non ti vedo so che stai a suonare, così pure Francesco. Però quando possiamo, da buoni fans, siamo dall'altra parte del palco. Certo, grazie Francesco, ti aspettiamo con la band qua, con le Gang, cosa dici? Beh, quello... No, vicino a Padova, nel circondario almeno, insomma. Sì, vabbè, quando magari si capita in zona ci possiamo sentire volentieri. Benissimo, grazie di tutto. Allora. Grazie a voi, buona ciao, sera. Ciao Andrea, ciao ragazzi. Tutto. Ciao. Buon proseguimento, ciao. Bene, benissimo, abbiamo parlato con Francesco che... Sì, più che un direttore artistico è anche un amico vostro praticamente, quello importante. Direttore artistico sì, perché sul lavoro bisogna fare le cose seriamente, però... Vi ha dato una mano dal punto di vista proprio di amicizia, per contribuire. Quello senz'altro, nel senso che nel termine della realizzazione del disco, senza il loro aiuto, per quanto mi riguarda, per i miei mezzi, sia per l'esperienza accumulata, certo, che per i mezzi economici, non ce l'avrei fatto. Cioè, noi mangiavamo a casa di Francesco tutti i giorni, ci ha ospitato proprio a casa sua, insomma. È una bella cosa questa. Bellissimo. E il bello è che lui e Fabio... Quando magari spiegava al batterista o a me come dovevo cantare una strofa o suonare la chitarra, ti dicevano: fai così perché, cioè non era una cosa imposta, sono direttore artistico, è così e basta, no, ti magari ti dà la spiegazione. In un passaggio ti citava, che ne so, Neil Young o un fraseggio di Jimmy Page o di Blackmore, che lui, Caporaletti come me, Francesco è un grande stimatore di Blackmore. E abbiamo visto video, ci ha raccontato aneddoti. Quando Daniele andava, insomma, suonavano insieme così per dargli qualche dritta, qualche consiglio, qualche insegnamento, da buon musicista. Io magari stavo lì, leggevo i libri, i suoi libri, insomma, è stato un motivo di forte crescita, sia umana che dal punto di vista chitarristico e del musicista in generale. Perché fare lì, Caporaletti è uno che avrà ascoltato 20.000 dischi, non certo, lo so, certo. Una cultura musicale sconfinata, si ricorda ogni formazione, ci ho perso anche una scommessa con un disco dei Whitesnake, cioè uno che veramente, raramente incontri persone con quella cultura musicale, è difficile. Certo, benissimo, adesso facciamo una cosa, sentiamo un altro pezzo da disco e poi cominciamo a cavalcare suonando. Traccia hai scelto? La traccia numero 4. La 4. Questo una cover dei Gang voluta da Caporaletti. Io ero andato lì con un'altra idea, avevo preparato per mesi un pezzo, metto: Andrea, abbi fiducia in me, facciamo il Porto delle Ombre, ha rivoltato il brano. E poi, rivedendo un po' il nostro essere, il nostro quotidiano, stare un po' dalla parte, tra virgolette, dei cattivi, in questo caso magari dei pirati. Certo. Questa è una canzone, io almeno a mio avviso vedo come anche un po' dalla parte di chi approda e che c'ha bisogno un po' di un rifugio. Comunque è uno degli spiriti liberi, questo senza dubbio. Ok. ci aspetterà. Bar del porto, la maga del destino, cava rotta e carte, alzante all'assassino, il trafficante di ali, mani sporche di cera, cantava la promessa con voce di sirena, gli zingari dei mari. Il sogno, la vela di chi spera. Sarà la riva, sarà galera che ci nasconderà. Sarà paura della bufera che ci catturerà. Radio Rock Wave, l'onda del rock. State ascoltando sempre Rock Wave. Stasera abbiamo Andrea Salini e la sua band. Rock Wave, un programma cui live sono organizzati da Alberto Prisco, nostro direttore artistico, qui di fronte. In regia c'è sempre Michele Tosone. Salutiamo un momento la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, sono le nostre fan accanite. E parliamo un momento di questo pezzo, una bella cavalcata fortissimamente voluta da Francesco come cover delle Gang. Vengo dei Gang, vero Andrea? Sì, sì, io come idea all'inizio avevo Dove scendono le strade del disco Storia d'Italia. Che Storia d'Italia è un disco un po' controverso perché avevano un rapporto non rapporto con Bubola, che era il loro produttore. Sì, sì, so, ho letto nella biografia e poi mi è capitato di parlare con Marino di questa cosa. Però appena entrati in questo garage, che poi noi l'abbiamo chiamato... Che è il tuo garage praticamente. No, no, in non realtà è no. Questo era il garage in cui provavano una band, mi sembra che si chiamavano Freight Train Blues. Una cosa, ma sempre Arieti? No, no, no, Civitanova Marche. Ah, Civitanova Marche, sì, quindi le marche praticamente. Il bello è che un po' c'è stato un connubio nel realizzare il disco anche come idee, anche nei brani, perché passavo dalle montagne in cui vivo io, scendevo al mare. Al quindi, mare, esatto. E noi registravamo a pochi metri dal mare. Quindi bellissimo. È stato un forte motivo di ispirazione. Certo. E allora parlavi di questa fortissima mente, volontà da parte di Francesco di fare questo pezzo. Sì, Francesco stava lì seduto col basso e mi disse: Andrea, c'ho in mente sto giro. E ha reinterpretato un po' questo brano contenuto nel disco dei Gang Una Volta Per Sempre, che in realtà è arrangiato in maniera... Quello originale è più lento. Sì, più lento, esatto. Quello è un disco... Dice Marino, se non ho capito male, forse il migliore che hanno fatto secondo loro, credo, di aver capito così leggendo dal libro. Un disco suonato alla perfezione. Certo. Però Francesco, secondo me, ci ha un po' pensato, perché lui forzava il fatto del cantato. E un aneddoto bello è stato che quando abbiamo registrato quel brano, certo, in pratica io l'ho cantato due volte. La prima volta... Fabio Verdini, tastierista emmondista eccelso, grande artista che devo ringraziare perché ha registrato tutto il disco, è un grande amico, non aveva fatto partire il click, insomma, e io ho cantato uguale, Marino annuiva, poi stava proprio dietro le mie spalle e mi teneva la mano sulle spalle. Quando l'ho ricantata mi ha detto lasciala, è rimasta così, insomma. Ho capito. Proprio perché io ho ragionato e doveva essere stravolta dalla versione nel disco, e lì Francesco secondo me ci ha pensato un po' per l'aspetto, perché noi sempre i capelli lunghi, gli orecchini, il fatto di essere sempre un po', viviamo un po' in zone impervie. E il paese dove vivo io e loro conta 300 abitanti e sta a 800 metri. Quindi in montagna. Sì, c'è un lago, quindi certo. L'ha associata un po' più forse alle nostre figure. Ho capito. Però c'è avuto una bella idea e tanti mi dicono che questo è il miglior disco dell'album e io non me ne prendo, perché per me è una buona eredità, insomma. È sicuramente una ottima cavalcata elettrica. Sì, senz'altro. Assolutamente, cioè l'avete giustamente velocizzata rispetto al brano originale della Gang, ma l'avete fatta voi, siete voi i protagonisti. La Gang sì, l'ha scritto, ma questo è un altro par di maniche. Ma guarda, questa è l'impronta che l'ha data Francesco al brano. Io ci ho studiato un po' a casa, nella quiete di quel paese, e prima l'avevo cantata tutta con una voce pulita tipo Marino, poi ho detto no. Non c'è il basso che gira forte, allora infatti si sente insomma un cantato deciso. È il sitar che mi pare che ci sia. Il sitar, questo è un altro aneddoto, credo che Fabio, che ha avuto questo sitar, non so se è il regalo, credo. Niente, pensando un po' ai pirati, si è fatto ispirare, l'ha suonato proprio lì, seduto nel fuori garage, dal garage. Sì. Sempre. È stata un'idea geniale, lui hanno avuto delle idee fortissime anche nel brano di Made in Mexico, però questo poi magari lo possiamo dire dopo. Sì, adesso suoniamo, cosa dite ragazzi? Sì. Che cosa? Possiamo suonare la canzone del lupo. Perfetto, suoniamo la canzone del lupo. Ok, qualche secondo. Ok. Ecco il vento fuori. vita, affamato da chissà che il coraggio fa paura, sulla neve nascerò. Ragazzi, io sono nella fossa di leoni, ho tutti i brividi nel senso del rumore, del suono potente, questa Fender Stratocaster che Andrea ha sviolinato. Dimmi, Andrea. La Stratocaster è un po' un simbolo, eh? È un simbolo del rock. Se non c'è la Stratocaster, non c'è il rock. Poi c'è il basso Fender e la batteria. Questo giovanissimo ragazzo qui davanti. Bah, bravissimo, bravissimo. Guarda, riguardo alla chitarra, spendo due parole perché insomma, io nasco come chitarrista. È un'altra cosa che ho imparato da Marino Severino. Lui suona da anni una Square negi anni 80 nera, simile a quella di Joe Strummer, perché poi c'è un legame, no? Clash hanno sì un legame, quelli Clash, almeno all'inizio carriera. Ma a parte quello, senz'altro, però proprio il discorso legato allo strumento, che diventa un po' una sorta di coperta di Linus. In cui uno si nasconde dietro, no? Diventa un po' come il cappello di Tom Waits. Ah, vero. Quindi Marino l'emblema è quello. Ha visto la Telecaster da Joe Strummer, Joe Strummer l'avrà vista da Spruce Easting. Certo, sì. E all'inizio io anche suonavo una Telecaster perché ero rimasto folgorato da Marino. E era una Telecaster messicana, mi ha ispirato Made in Mexico. Poi da anni ormai suono la Stratocaster, sempre questa. E diventerà un po', spero, nel tempo un simbolo, cioè la convinzione mia è, visto anche Blackmore dal vivo, suonano i chitarristi. Cosa ne pensi del Blackmore versione musica folk? Ma guarda, mi apri un portone gigante, nel senso che l'ho visto dal vivo due volte. Adesso si esibisce con la moglie. Con la moglie, sì. Mi sembra al Sistina nel tour Village Lantern. E poi l'abbiamo rivisto qui su a Brescia. E sono rimasto folgorato. È sempre bravo in ogni caso, anche se ha cambiato leggermente genere, anche se non è propriamente vero, perché in certi momenti nei Deep Purple aveva qualche andazzo, qualche reminiscenza folk, questo sì. Quello senz'altro, ma il pallino di Blackmore, da quello che ho letto, parlando anche con Caporaletti, che risalta fuori che lui è un cultore, ha suonato con Ian Pace, quindi detto prima, abbiamo capito chi è, a buon ragione. Esatto. Blackmore ha avuto sempre il pallino della musica classica. Sì, vero, sì. E non ha dissertato altri ascolti come si sa, ormai, i Tillizi o gli Abba. Uh-huh. Una forte vena melodica, è una grande personalità. E io dal canto mio me ne ispiro e cerco di tirar fuori, certo, il meglio e creare uno stile mio, insomma. Certo. Piano piano, molto piano. Dobbiamo sottolineare una cosa: la compostezza di Daniele al basso e la compostezza di Stefano alla batteria. Proprio perfetto, sembrano musicisti da un sacco di tempo che suonano. E invece sono giovanissimi, ragazzi. Giovanissimi. Bisogna sottolineare questo. Quest'anno siamo, insomma, orgogliosi di poter dire che il disco è stato autoprodotto, il tour è stato autogestito. Non ci vergogniamo a dire che abbiamo suonato dalle parrocchie ai festival come quello antiraziale di Filottrano, piuttosto che nei club specifici in cui si suona musica al vivo. Quindi questi ragazzi insieme a me, sottolineo, insieme ci facciamo le ossa, ce le rompiamo anche sulle macchine, mal di schiena, mal di testa, non importa, sì, i chilometri, quello è il rock and roll, è uno stile duro, scomodo, un po' da masochisti. Certo, ma tu mi hai detto che anche hai imparato come mettere gli strumenti nel furgone grazie a Francesco, quindi insomma. Ma anche a Marino, Sandro. Dopo tutto è un aneddoto, tutto è un racconto, perché credo fecero addirittura una poesia su un tizio che li accompagnava. Insomma, stare a contatto con quella gente è motivo di creatività sempre, e comunque stravolgono le frasi, battute, risate, sfottò, battesimo del fuoco che ho ricevuto io stesso. Mi ricordo la prima volta che suonai con loro, d'accordo, al camerino mi dissero: ma sei partito con una tonalità diversa. Io sbiancato, poi dopo risata generale, era un battesimo del fuoco, insomma, era entrato. Tremendi sono, senso positivo del termine, sempre positivo. Visto che ci stiamo scaldando, siamo tutti sudati, ma senso positivo, ripeto il termine, suoniamo un altro pezzo live, che cosa? Suoniamo Made in Messico. Perfetto, Made in Messico. Allora. Stanno predisponendo, è tutto dal vivo. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Questo pezzo era caratterizzato dai tuoi innumerevoli stop and go, bellissimo. Fammi uno stop and go velocissimo di qualche secondo, dai, vai. Dai, un momento. Della canzone? Sì, della canzone, vai, vai. Un stop and go solo. Ecco, perfetto, il punk riveduto corretto da Andrea Salini at Company. Punk è così, cosa c'è di male? Certo. È bellissimo. Pezzo strepitoso, questo fate muovere tutti dal vivo in questo pezzo. Eh sì, dal vivo piace molto, piace pure ai piccoli. Mm. E certo, poi certo. Io dove vivo insegno, cioè allievi piccoli, è un brano voluto, pensato a slogan, stile punk. Mm-hmm. Che dicevamo prima. Certo, certo, certo. Incontrato, insomma, le varie forme del rock and roll. L'idea com'è nata, Andrea, di questo pezzo? Come l'hai ideato, l'hai costruito e poi chiaramente abbiamo messo gli strumenti, abbiamo messo l'idea musicale? Ma a livello del testo, dell'ideologia, sicuramente i discorsi che faceva Marino su Marcos, sullo zapatismo, insomma, sì. Mi ha ispirato. Poi l'aneddoto è che all'epoca avevo una Telecaster rossa e sulla paletta c'era scritto Made in Messico. Ah, perfetto. Allora, da lì mi è venuta l'idea e poi collegandola a Marcos, agli zapatisti, ai Campesinos, è venuto fuori quello stile su un genere, quindi questa è una canzone proprio pensata e voluta a slogan nello stile punk. È un pezzo secco, assolutamente diretto, secco, senza fronzoli. Nello stile punk, poco, cioè minutaggio non lungo, abbastanza striminzito, perché è così che si fa il punk. Deve far muovere i piedi. I Ramones avevano fatto un pezzo, tantissimi pezzi di Ramones duravano 3 minuti, però con i Ramones con 3 minuti avevano già percorso una grande percorso rock. Con 3 minuti. Sicuramente. Padri, assolutamente. Qualcuno dice che sono i Clash, i padri. Cosa dici? I Clash o i Ramones? Secondo me sono gli stessi padri a distanza geografica. Esatto. Clash stavano qui, oltre Manica, quelli stavano in Stati Uniti. Stati Uniti, esattamente. Stesso, li muoveva la stessa voglia di dire qualcosa, di muoversi, di reagire a degli stilemi, degli stili di vita. Insomma. Perfetto. Raccontavano storie. Certamente, adesso sono le 23:53, facciamo una cosa, ci riposiamo un secondo, perché abbiamo fatto 2 pezzi live, anche se il rock non fa riposare, fa sempre muovere. Sentiamo un pezzo dal disco e poi facciamo il giochetto delle 23. Che brano c'è, Michele, che traccia? Numero 5. Lo puoi presentare, Andrea? Brevemente, sì, sarei contento. Allora, questo è un brano, si chiama Terre Lontane, parla della mia terra, il Cicolano, e io l'ho sviluppato pensando all'ascoltatore magari lontano, ne so, io da casa mia che penso a voi, sì. E quindi dico, sono terre lontane quelle che qui non vedi. Certo, da certo, da qua. E poi nel ritornello mi rivolgo ai miei compaesani, nel senso che noi viviamo in un territorio duro, dove l'occupazione stenta, insomma, viverci è difficile, si accende ancora il fuoco, si va solo in salita sulle scale. E mi rivolgo a loro dicendo, restate qui, anche se è buio, cioè è una metafora come per dire, comunque vale la pena lottare per esistere su queste terre, insomma. Ok. Ok. Grazie. Sono lampi nell'aria. Sono sbaglio. Resta qui anche se è buio. Resta qui, c'è un altro sbaglio. Radio Veneto. Il colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Si state ascoltando Rock Wave, chiaramente 22:58 in diretta con Michele Tosoni in regia, con Andrea Salini e la sua band giovanissima, che pompa musicalmente parlando. Facciamo del rock, Andrea, del grande rock, quello è importante, assolutamente. Sicuramente, loro, questi ragazzi qui, Daniele e Stefano, Daniele e Stefano, tedeschini, fratelli, quindi una grande forza, una grande unione. Mi è capitato, insomma, di suonare e vedere Marino Severini seduto sotto al palco, insomma, c'ha delle orecchie appuntite, e mi ha detto: guarda, che forse finalmente ha trovato le persone giuste. Giuste, esattamente. E io mi sento, dato che io ho 34 anni, quindi sei giovane, sì, rispetto però, a me, sei giovane. Nei riguardi di Stefano, ho 14 anni di più, e spesso gli rompo un po', tra virgolette, l'anima, anche dal punto di vista umano. Discutiamo della società, di quello che succede intorno, perché uno nella vita deve avere qualche scottatura, certo. Quindi avere più anni evita a loro di fare degli errori che tu hai fatto sulla tua pelle. E loro, devo dire, hanno una loro personalità forte, riflettono sempre su quello che dice, però poi se ti dicono sì, sì, è così. Insomma, grande motivazione anche nel trasmettere quello che ho imparato e che imparo tuttora. Certamente. Allora adesso facciamo la solita nostra domanda delle 23, manca un pochi secondi. I tre dischi da portare su un'isola deserta, a vostro piacimento. La regola fondamentale di questa giochetto che passiamo da almeno 5 anni qui a Rock Wave è di non copiare. Chi comincia dei tre? Comincio io, va. Comincio così loro ci pensano, si preparano. Okay. Allora, io direi Jimi Hendrix, Axis Body Slope. Ah, come mai hai scelto il grande Jimi? Perché è un tuo punto di riferimento, ma è un tuo idolo, quello sì, possiamo dire. Sicuramente è un mio punto di ispirazione, ecco. E nel tempo sto cercando di approfondirlo sia dal punto di vista culturale, quindi biografie, letture, DVD, musica, perché Hendrix è molto complesso, e anche col mio maestro, quando vado a lezione ancora da lui, cerchiamo di capire quello che voleva esprimere, perché poi la rilettura delle opere di Hendrix è attualissima, e da quello che ho letto nei libri dicono che il contributo che ha portato alla musica moderna resta inestimabile. Io, certo, lo condivido, insomma, quindi quello senz'altro. Quindi Hendrix io ce l'ho un po' nel mio DNA di chitarrista, e nessuno me lo toglierà mai. C'è qualcuno che sottintende al suo non essere aggiornato, ci credo poco, ecco, insomma. Michele ti ha messo ai Joe, senti. Perfetto. Poi, un grande pezzo. Ci piacerebbe poi risuonarlo dopo dal vivo. Come no, si può fare, non c'è problema. E un altro direi Rainbow Rising, per citare Riccardino. Come lo chiama Francesco, come ho detto, Blackmore. Riccardino. Lì forse è nato veramente il rock epico, quello al fulmicotone, quello un po' in odore di vulcano. Come mai secondo te Richie Blackmore ha avuto queste tante trasformazioni a tuo a tua idea. Ma intanto... Sei trasformato. Chiaro, tu hai detto, parlavi prima della musica classica, adesso è arrivato alla musica folk, però non solo alla musica folk. Intanto diamogli atto che Blackmore, per il suo carattere, spesso non è citato insieme ai vari Jeff Beck, certo. Ma come talento, secondo me, non è da lui meno. È un grande songwriter, ha scritto centinaia di canzoni. È una persona che non si contenta sia nel suo limare continuamente la tecnica, sia nella ricerca della melodia. Un po' la concezione del nostro Caporaletti. È uno che io, Blackmore, quando lo vedi pure dal vivo, c'è una concentrazione totale sulla chitarra e deve avere un controllo perché la salunga proprio. Cioè, secondo me, è una persona molto colta, molto preparata sull'arte in generale. Nella sua musica viene citato il teatro, il cinema. Che ne so, il Mago di Oz, no? Sì, sì, capito. Oppure strizzato l'occhio sempre Hendrix, grande chitarrista. Io quando l'ascolto me ne vado proprio a spasso con gli dei. Benissimo. Quindi ecco, ripeto, quello di Hendrix, questo Rainbow Rising, diciate. E poi? Voglio citare anche un disco in italiano e sicuramente direi Gang Controverso. Ah, bello, bello, bello. Quello è il disco, a mio avviso, più cantato, forse anche più sofferto. Sì. Per quanto riguarda i testi, c'è tanto anche in Una Volta per Sempre, però Controverso, secondo me, c'è qualcosa che va a toccare proprio l'anima. Quindi al di là di quello che può evocare Nomina il Vento in una canzone, ok, è proprio un disco che musicalmente, cioè, è sanguigno proprio, è un rock proprio come uno sputo quello. Sono sporco contro ogni tendenza. Esatto, contro, sì, contro ogni tendenza. Difatti ha avuto critiche non totalmente positive per quel motivo là, all'epoca. Sì, sì, vabbè, lì poi c'era tutta la diatriba con la UEA. Esatto, c'era la diatriba con la UEA che ha conosciuto negativamente. La voglio nominare poco perché toglie il disco. Quello è un disco che dovrebbero ascoltare tutte le persone che si avvicinano alla musica per diletto, ma anche chi la pratica, chi suona i locali. Purtroppo i Gang hanno pagato qualcosa della loro indipendenza artistica. Indubbiamente, indubbiamente. I gruppi come il mio gli ridanno lo splendore e quello che si meritano. Sempre gli daremo indietro quello che ci hanno dato, le emozioni, i chilometri trascorsi. Quindi questo è un disco che io ascolto e ascolterò. Abbiamo ascoltato anche oggi. E poi con due macchine siamo venuti. Prima abbiamo ascoltato noi. E già l'avevo ascoltato Stefano, per esempio, mi ha fatto fare casa alcune cose, ma te lo rimasterizzo perché non si può più comprare, purtroppo, questo è un disco. Io ce l'ho tutti originali, tutti autografati. Però e loro, alcuni stanno ancora in catalogo, però quello è un disco, forse è il più bel disco rock che hanno fatto in Italia. Certamente. Secondo me, poi ci starà chi storce il naso, come Blackmore, seguito la mia strada, sbagliando, azzeccando, quindi certo. Sono responsabile di quello che dico e secondo me quello è un disco proprio. Se facessi un disco così, io non dico che lascerei stama, ma quasi. Ok, tocca a Stefano, adesso dovresti avvicinarti leggermente al microfono, o se te lo passano, ecco, è meglio così, perfetto, così puoi parlare anche te. Benissimo, benissimo, che ci siamo, sì, perfetto. Ok, ci sei? Sì. Vai Stefano. Allora, il primo disco sicuramente è Power Slave degli Iron Maiden. Come mai hai scelto gli Iron Maiden? Nico McBrain. Ah, ho capito, quello è il motivo. Il batterista. Esattamente. Suona abbastanza bene, no? Sì. Ok, poi? Secondo, British Steel dei Judas Priest. Ah, un altro gruppo non pesantino, insomma. Sì, per modo di dire, insomma. Pestano notevolmente. E poi? E l'ultimo CD dei Social Distortion. Ah. Hard Times and Nursery Rhymes. Sei arrivato sono un po' leggermente diversi l'ultima scelta che hai fatto. E qui, scusate, dimmi. Rientra Marino perché anni fa mi disse: Andrea, tu devi ascoltare Social Distortion. E io poi l'ho fatto ascoltare a Stefano. Si è innamorato subito. Tanto meno mi devi pagare una pizza. Ecco appunto. Bene, adesso fratello, vai. Vai Daniele, tocca a te adesso. Allora, io per primo i Guns N' Roses. Quale dei Guns? Appetite for sì, quello, il mitico album da milioni di copie in tutto il mondo, che li ha lanciati nel filmamento musicale. Esatto. Poi sono un po' ripetitivo. Eccoli, sono qua. Eccoli. Però vado sui Velvet Revolver. Ah, i Velvet Revolver. Bene o male sono sempre loro. Sì, esattamente. C'è una propaggine, possiamo dire una propaggine. Cambia, diciamo, due. Sì, due, esattamente. Basta. Però il titolo del CD, sinceramente, no. Beh, facciamo i Velvet Revolver. Dai. Okay. E un altro, l'ultimo. Il mio. Il tuo? È tuo? Esatto. Perché no? Beh, no. Perché no? Volevo i Ramones, ma pure quello di Andrea Salini. Perché diciamo, no? Non è male. Dottor Hyde e Mr. Hyde, perché no? È giusto, è una giusta scelta. Esatto. Bene, abbiamo concluso il trittico, abbiamo parlato dei gusti e adesso facciamo una cosa semplice ma essenziale: suonare. Che cosa, Andrea? Riproponiamo un brano reinterpretato da Jimi Hendrix, perché da quello che so io è una cover, insomma. Sì, è una cover, esatto, sì. Ma adesso ho letto che c'è una diatriba, qualcuno dice che è di un certo Rose, sì. Non si è capito ancora bene chi sia. Sicuramente l'ha portata al successo Hendrix, l'ha reinterpretata in modo. E il bello è che questi ragazzi qui non disdegnano affatto la musica. Bene. Quindi riproporremo Eggio a modo nostro. Ok, very well. Andrea l'Astrotcaster, Daniele al basso e Stefano alla batteria. Lo spirito di Hendrix aleggia, adesso sta aleggiando lo spirito di Jimmy, il grande Jimmy. Grande Jimmy Hendrix, grande. Beh, quando si prende un pezzo di Jimmy, Andrea, cosa senti quando vuoi riproporre un pezzo di Jimmy? Al di là di tutto, di tutti i discorsi che possiamo fare, qual è l'emozione che provi a sentire un pezzo, a rifare un pezzo del grande Jimmy? Guarda, grande devozione, grande emozione, io ho una sensibilità fortissima, spesso mi vengono gli occhi lucidi, te lo dico dal vivo. Anche sottoscritto, chiaramente, che non suono, però lo stesso, c'è il feeling lo stesso. Spesso, anche quando facciamo Little Wing o The Wind Cries Mary, c'è una voce che un po' mi trema, francamente. Ci credo. È emozionante. Poi l'emozione fortissima, da un lato non riesco, se, quando provo a casa per esempio gli assoli così o in sala prove, riesco a rifarli come il disco. Poi dal vivo non mi riesco a controllare tanto, però me lascio andare, insomma. Ah, ci credo. Tanto Alberto sta facendo le fotografie, visto il nostro direttore artistico sta facendo le fotografie. Quindi grande devozione, grande ispirazione, grande soddisfazione. Penso che suonerò sempre Jimi Hendrix. La scaletta che fate dal vivo, oltre a presentare questo disco nuovo vostro, oltre al cover di Jimmy, cosa fai praticamente? Allora, cioè la scaletta vera e propria, come funziona? Alterniamo, almeno da un anno a questa parte, per tutto il tour, 6 brani inediti del disco. Del disco? Tranne il Porto delle Ombre, perché spesso non c'è. Quella è una canzone che richiede almeno 2 chitarre elettriche. Ok. Quindi solo per quello, per l'organico. Poi riproponiamo alcuni standard del repertorio dei Gang, fino alla fine, Paz, Comandante, qualcosa di Bob Dylan, Ramon, poi magari dopo potremo fare qualcosa. Certo. Rock anni 70, prima anche qualcosa di Pink Floyd, adesso ci ripensiamo, insomma. E hai chiuso questo disco, avevi già degli altri pezzi pronti che assieme a Francesco avete detto no, questi vanno bene per questo disco e basta? No, in realtà no. Per esempio la canzone del Lupo che era molto bella, molto folk secondo me. Sì. E molto folcheggiante. Quella l'ho scritta proprio quasi a ridosso della realizzazione del disco. Non ci pensavo proprio, ma mi è venuta l'idea. Perché tutto il discorso dei lupi e poi il lavoro che abbiamo fatto anche E come nasce la canzone dei lupi? Dai, la canzone del Lupo nasce. Allarghiamo il discorso. Nasce dall'appartenenza ai luoghi in cui vivo. Io, gli amici, Emiliano e altri, gente che non c'è che fa con la musica, ma con quell'ambiente lì in cui vivo, per anni siamo andati appresso ai lupi, li abbiamo osservati, insomma, ci piace proprio come animale in sé e come forza, come simbolo, un po' il bandito degli animali, no? Quindi io l'ho cantata anche in maniera non tanto forzata, pensando un po', parlando anche con Marino, come una filastrocca, no? Sì. Infatti ai più piccoli sono tutti innamorati di questa canzone, perché il lupo viene fuori sotto un'altra chiave, non più come un animale additato, bandito, ma come un animale che ha la sua famiglia, va a caccia, torna a casa, gioca con i figli, deve preoccuparsi per la casa, quindi è stato un po' ridargli indietro una dignità che non aveva, che aveva perso, che aveva perduto. Anche perché io, per conto mio, insomma, ho fatto delle letture, ho visto che proprio i biologi, questi qui che fanno i documentari, hanno visto che il lupo c'ha una vita sociale proprio come l'uomo, gioca con i figli, va a caccia, insomma. È un padre di famiglia, certo. Non un assassino come è stato dipinto, sì, è scacciato dai padroni perché magari cacciava la selvaggina, oppure qualcuno nell'immaginario sa che il lupo mangia le pecore perché gli è stato tolto con la caccia sfrenata per anni le prede naturali. Ecco, questo bisogna dire ste robe, tant'è che è stato reinserito da qualche anno in Svezia perché le alci o animali simili credo stavano distruggendo la vegetazione, non essendo più un animale al vertice della catena, certo. C'erano dei problemi, ci doveva riprendere l'equilibrio. E questo nella realizzazione anche ultimamente, ecco, questo lo vorrei dire agli ascoltatori, abbiamo realizzato con il direttore artistico della parte grafica, con Marco Cardone, un artista conterraneo che ha realizzato tutta la parte grafica, ha disegnato la copertina, ha realizzato il video del lupo, e ci tengo a dirlo, a parlare anche un po' delle sue attività. Adesso lui sta esponendo a Genova, poi andrà a Bilbao, quindi avere nel mio primo lavoro una confezione, perché poi c'è anche quello, no? C'è tutta la cultura musicale degli studi tipo l'Ipnosis, facendo le copertine di Pink Floyd, certo. Insomma, l'esordio, avere i Gang, avere un artista come Cardone che realizza la parte grafica, le foto, sono stato un po' fortunato, o forse ripagato della mia caparbietà, quello che diceva prima Caporaletti, tener duro, sì, esatto. E questo, io sono stato lì passo passo, ha fatto Marco Cardone tanti tentativi, ha disegnato questo lupo stilizzato, nel video non si vede mai il lupo, tutti l'aspettano che esce, invece è un animale schivo, no? Quindi anche i caratteri che ha scelto, noi abbiamo detto questa non è un'opera musicale che deve colpire a primo acchitto, e ha voluto fare una scrittura ciliere di caratteri che ha inventato proprio per quel disco, quindi quello è un disco che prendendolo in mano ci devi perdere un po' di tempo. Sì, esatto, tu hai detto una cosa giusta, bisogna sentirlo, così lentamente, progressivamente ti entra dentro, questo esatto. È importante. Anche perché pur essendo un disco autoprodotto, col lavoro certosino di Marco Cardone abbiamo inserito le foto, ha fatto dei disegni ad hoc, ha disegnato il retro della copertina, e quindi è un lavoro artistico in tutto. Ma si permette, mi permetti Andrea, l'autoproduzione adesso diventa anche spesso e volentieri più della produzione se stessa, della produzione delle grandi etichette. L'autoproduzione è molto più curata qualche volta, anzi spesso più curata delle produzioni delle grandi etichette. Sì, probabile. Guarda, io sono fortunato, mi ritengo fortunato perché vivo in un posto che mi piace, dove la natura è l'unica cosa che c'è. Però riusciamo, anche con questi ragazzi qui, Stefano, che mi danno retta, mi vengono appresso, questi mi sostengono, e ce ne andiamo al teatro, ce ne andiamo al cinema, andiamo ai concerti, andiamo alle mostre, cioè viviamo, oltre che quello che ci dà da vivere, nel caso mio la chitarra, nel caso loro anche altre cose, viviamo nutrendoci anche dell'arte, sotto ogni forma, certo. La lettura, la letteratura, tutto, perché io per esempio sono uno che si ispira molto al cinema per le canzoni. E mi piace vedere i film vecchi, sia quelli americani, ma non sono un esterofilo, nel senso che adoro gli attori, ecco, come la Magnani, come certo. Manfredi, Gassman, Tognazzi. Quindi se lo spirito è propenso, è aperto a captare le sensazioni, le vibrazioni, trovi l'arte, perché poi se ne parla, però nessuno c'ha il tempo di andare al teatro, al cinema, certo. O di leggere un libro. Invece noi siamo fortunati perché per vivere, almeno io, anche un po' anche loro ovviamente, devi essere dentro sì. Su questo sistema. Sì. Quindi Dottor Haida e Mr. Haida ha avuto questi presupposti. Senza dubbio. Cinema, libri, film, cinema nel senso. Io personalmente la televisione la guardo poco. Guardo la radio, anche. Sì. Guardo Rai News, le informazioni quelle più veritiere, poi guardo i film. Certo, la certo. Televisione per me è un elettrodomestico. Esattamente. Capito? C'è il lettore DVD, metto i film e via. Le posso vedere, non so, Arancia Meccanica, Guerrieri della Notte o l'ultima volta stavamo a vedere insieme Guardie e Ladri. Ecco, quello che capita, insomma. Esattamente. Film seri fatti con gli anni, con i vari ruoli, sceneggiatori, direttore della fotografia. Adesso è un po' diverso. Non ci voleva tempo per fare film. Esattamente. Ok, sentiamo un altro pezzo da disco. Michele, che traccia è? Ti ricordi? Il numero uno, traccia numero uno. Ok, la sentiamo. Una mano disegnò lupo nero in una fiaba, accusato da chi può, maledetto da chi ruba. San Francesco gli parlò lungo il muro per un po', tra le case lui restò. Ecco il sole fuggì via, ecco l'uomo la bugia, ecco il vento porta via la paura, la magia, inseguire un'altra scia. La natura mi insegnò a cacciare per la vita, affamato da chissà che il coraggio fa paura. Sulla neve lascerò le mie orme e correrò, la mia tana troverò. Ecco l'alba scappa via, ecco l'uomo la follia, ecco il vento porta via la ragione e la poesia, inseguire un'altra scia. Ecco il vento porta via sentiero più sicuro il mio verso porterà altri brividi lontano, un padrone mai avrò, sempre libero sarò, con la pioggia tornerò. Ecco l'alba scappa via, ecco l'uomo, la follia, ecco il vento porta via la ragione, la poesia, inseguire un'altra scia. Ecco il vento porta via, ecco l'uomo, la follia. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. 23 e 22 assolutamente live. Allora, come canta Marino? Mi dicevi che dovevate ingrandire le parole, perché sai, con l'età la vista un po' si perde. Beh, non è più un ragazzetto Marino, c'ha le sue primavere. Però l'aneddoto è che in 10 minuti ha fatto tutto. Sì, sicuramente ha dato qualcosa di unico a quel brano. E poi cantavi insieme con lui, però. Io quella strofa l'ho pensata un po' per lui, ispirandomi agli atteggiamenti suoi, il fatto di essere così liberi. Quindi quella canzone è tutta una metafora. Certo, certo. Poi è come, non lo so, uno c'ha un idolo musicale e se ci ritrova a suonare insieme a fare un disco insieme. Questo è per noi, per me è stato un po' un'epifania, insomma. Io Marino, la prima volta l'ho incontrato, ma è successa la classica cosa che succede, credo, a tutti i ragazzi. Pensavo fosse più alto, no? Hai detto questo. È piccoletto, è fortissimo. Ci ha offerto l'MS, il bicchiere del vino che c'aveva in mano. Me lo ricordo, stavamo alla Piazza dell'Aquila. Era una delle prime date del tour Controverso. E mio fratello l'aveva già incontrato prima. Dunque, loro andarono a un concerto, io ho una buona memoria, ottima memoria. Il 3 giugno del 2000 a San Lorenzo, credo. E io quell'epoca già suonavo, però lavoravo al cantiere, ebbi un infortunio alle unghie cadendo da un muro, insomma, non quella serata l'ho mancata. Sì, non potevi andare. E allora mio fratello mi riportò la locandina autografata e l'indirizzo di Marino scritto a penna, e io gli scrissi una lettera così. Descrivendogli un po' le aspettative, e lui, io così, sai, quando stai convalescente con una gamba alzata, no? Certo. Su una sedia. Dopo 3-4 giorni è venuta la postina e mi ha detto: c'è una lettera. E era Marino che mi rispondeva con una lettera di 2-3 pagine. Vedi, E da lì, insomma, è nato tutto quanto. Bene, bene, cosa meravigliosa. Ok, parliamo adesso. Mi devi citare effettivamente chi ha suonato nell'album, praticamente. Allora, diciamo che Francesco Caporaletti, di direttore artistico, è poco, perché lui ha fatto cori, chitarra acustica, basso, credo anche qualche percussione, ha suonato delle note slide aggiunte, e il basso, manca a dirlo, jazz bass del 71. Ah, un piccolo capolavoro di strumento. Quando l'ha suonato Daniele per la prima volta era emozionato. Era emozionato, Daniele, eri emozionato quando suonavi il basso di Francesco. Quel basso c'ha le stesse età di mio fratello, quasi 40 anni. Vedi caso, c'è poi un'emozione. Fabio Verdini ha suonato pianoforte, synth, detto quacquarino, l'abbiamo scritto nelle note. Sì, come dicitura di Civitanova Marche, tastiere Hammond vero, attaccato a un Leslie vero, sitar. Certo. Cori, effetti, vari ed eventuali, ha voluto sottolineare, e poi ha registrato tutto il disco. Spesso con una mano registrava e con una mano suonava. Ah, però. Tanto per capire di chi parliamo. Verdini, da quello che so io, diplomato al Conservatorio Rossini di Pesaro. Quindi. Tanto di cappello, maestro di musica classica, che ti suona Chopin e poi ti suona come John Lord e rimani, quindi questa è l'altra parte. Di Purple Docet sempre, in ogni caso. Certo. Poi Diego Garbuglia, Diego Scialò Garbuglia, perché i marchigiani, come hanno i loro soprannomi, ha suonato la batteria. Francesco Bigoni ha suonato l'armonica. Marino Severini ha cantato nella canzone del lupo. Sandro Severini ha suonato la sua, una delle sue Gibson, una Gibson Junior, credo. Su quante ne ha? Poche. Il discorso di prima, poche ma giuste. Poche ma giuste. I chitarristi forti ne hanno poche, suonano ma sempre giuste. La stessa chitarra. Esatto. E ha suonato l'assolo della canzone del lupo di Sandro. Mentre quello di Mamma Roma è mio, quello di Terre Lontane è mio e quello di... finiamo, Sandro ha suonato anche in Fight After Fight, che è il brano proprio dedicato ai gang. Lì si sente proprio lo stile suo, col tremolo. Certo. Cassa Vox, c'è un'impronta. Quello è un chitarrista che lo riconosci con una nota. Quando c'hai quello c'hai tutto, insomma. E chi altro? Ma Marco Casoni, che è un altro chitarrista bravo, amico di Caporaletti, ha suonato alcune parti in Made in Messico. Ha suonato molto la chitarra solista nel Porto delle Ombre. E abbiamo fatto un assolo insieme, prendendo spunto dai Pearl Jam. Lì è rientrata in gioco la capacità di Vetter Docet. Sì, perché io il pezzo, Rock and Roll Dreamer, un brano dell'album, era ispirato a rock and roll delle Zeppelin, sì. a Chuck Berry, no? Sì. Proprio era di rock and roll, tre accordi. Puro di rock and roll. E quindi lui ha proposto un assolo bello, però forse un po' troppo melodico. Ho capito. L'abbiamo ascoltato, io ho detto, c'ho un'idea anch'io. L'ho suonato e Fabio al volo l'ha messo su un altro canale. Quindi su un canale ce n'è uno e c'ha un effetto proprio la martelli degli dèi, come dicevano. Esatto, come parlavamo di Led, sì. Credo di aver citato tutti, insomma. Bene. Non me ne vogliono, se mi sono dimenticato. No. Poi io, vabbè, io. Io, cioè, hai suonato tutto. Io ho cantato tutti i brani. Fabio e Francesco hanno fatto i cori, poi ho suonato la chitarra classica in Mamma Roma e la chitarra elettrica su quasi tutti i pezzi. Quasi tutti i pezzi praticamente. E sei dilettato alla grande in quasi tutti i pezzi con la chitarra elettrica. Sì, guarda, sono orgoglioso soprattutto. E sempre con questa bestia qua davanti. Sempre questa. Ah, okay. Sì, sempre. Ho suonato il solo di Terre Lontane, cui mi piace parecchio. E anche Mamma Roma, ispirato un po' a Gilmour, a Blackmore. Certo. Sì, ma queste ispirazioni le hai citate sulle note del libretto, che hai parlato di Gilmour, di Blackmore, di tuoi voli pindarici praticamente. Eh sì, perché questi sono chitarristi lirici alla fine. Cioè, parliamo di tecnica fine a se stessa, nel senso che è sempre teso all'espressione. Il bello di questi chitarristi è che difficilmente distolgono l'attenzione dalla canzone come mezzo, no? La forma canzone. Certo. Questo me lo fece notare uno speaker, io ne rimasi contento, di Radio Orvieto Web, che mi ha intervistato quest'inverno e mi ha detto, dice, tu nonostante sei un chitarrista hai mantenuto la forma canzone, cioè gli assoli che io suono, tranne quello di Mamma Roma che è un pezzo strumentale, solo Terre Lontane dura 20 secondi, cioè messo lì come abbellimento, capito. Non come di adesso ti faccio vedere che io so fare. Sono più bravo degli altri. Pensato per abbellire il brano, e questi chitarristi hanno questo. Certo. Gilmour forse più di Blackmore, che poi Blackmore è proprio uno, c'ha un'urgenza di suonare, micidiale. Gilmour suona tre note, ti stende. Esatto, sì. C'ha un lirismo incredibile, io l'ascolto sempre, per me è un gran signore della chitarra. Per quello non andava mai d'accordo con Roger Waters, praticamente, qualche volta. Ma guarda, io non entro nel merito, nel senso che quelle sono personalità talmente forti, spiccate, che poi, sapete, insomma, uno dovrebbe... Sì, ho detto una battuta, però... No, ovviamente, nel senso ovviamente. Che... Tante cose, forse uno, i media le montano. Sì, le montano assolutamente. Dovresti conoscerli di persona. È vero, vero. So, grandi artisti proprio, hanno fatto la storia della musica moderna. E di caso, visto che parlando dei Pink, l'album The Dark Side of the Moon dal 73 è ritornato, l'hanno rimasterizzato, è ritornato in tutte le classifiche mondiali, Italia compresa. E i miti non muoiono mai, c'è poco da fare. I classici, quello è un classicissimo, un album da 60 milioni di copie. L'abbiamo comprato tutti, The Dark Star. Anche per provare lo stereo, ti ricordi, Andrea? Solo la copertina, il famoso studio ipnosi. Attualissimo. Ottimo. Cosa facciamo adesso? 23:30, volete suonare un altro pezzo o sentiamo un pezzo da disco? Cosa vuoi fare, Andrea? Potremmo suonare Terre Lontane. Suoniamo Terre Lontane, okay. Dai. Ci stiamo predisponendo tutto dal vivo. Adesso Andrea sta girando il libro giusto come si conviene, la pagina giusta e via. La memoria, esatto. solo per le lontane, quelle che qui non vedi, sono lunghi al sole, sono strade di prima, le percorro da sempre, sono spazi corsari, sono boschi e confini, sono sguardi lontani. Resta qui anche se buio, resta qui c'è un altro guaio, sono nuvole rosse che percorrono il cielo, sono campi scordati, sono lampi nell'aria, sono un sonno mancato, sono forse sfrenato, sono il tempo che cambia, sono sguardi lontani, resta qui anche se buio, resta qui c'è un altro sbaglio, resta qui anche se buio, resta qui c'è un altro sbaglio. Eccoci qua, hai cullato la Stratocaster, hai dato il tocco finale alla Stratocaster, è proprio lisciata, come si dice. Eh già. Questo è... Che bello, bellissimo, è una cosa, una sensazione, cari ascoltatori, è una sensazione molto bella vedere un chitarrista davanti, il batterista e il bassista che danno tutta l'anima, l'hai a un metro, no, neanche a un metro, mezzo metro, dà un certo fascino, una certa sensazione, e live in una radio è bello per quello anche, l'emozione che ti dà, la musicista che ti danno a noi, DJ o poveri DJ che conduciamo il programma. Cosa dici, Andrea? Oh, dico che è emozionante anche per noi, però mi piacerebbe che loro sono un po' resti a parlare. Parlano poco. Un po' quell'atteggiamento dei duri del rock and roll, però se parlassero un po' e descrivessero anche brevemente le loro emozioni. Daniele, dai, dici qualcosa sul tuo giro di basso, come che sei proprio assolutamente compassato, dai una forza incredibile, ma sei compassato, fermo. Ti ricordi il bassista degli Who? Ecco, sì. Ti ricordi il bassista degli Who? Sì, ecco, sì. Suonava in quella maniera compassata, era un finimondo, ma suonava in maniera compassata, fermo, all'inglese. Tu sei all'inglese, suoni all'inglese. Come tuo fratello, la stessa cosa, compassata, ma con un'energia incredibile. Dai, dimmi qualcosa. No. È lo stile suo. È il tuo stile, è un, sì, diciamo uno stile, non è una, una cosa che scegli, nasce, diciamo. Così. No, viene fuori così, sì. E basta, esattamente. Il primo approccio che avete avuto con Andrea, quando siete saliti sul palco assieme con Andrea, cosa va detto Andrea? Vai, andate e fate quello che sapete fare, quindi benissimo, o no? Sì, con Andrea abbiamo cominciato a fare una canzone ogni tanto, magari quando suonava, sì, facevamo gli ospiti quando suonava con l'altro gruppo di Barricata. Esattamente. E quindi magari ogni tanto andavamo là e ci faceva fare una canzone nel frattempo così, che gli altri fumavano una sigaretta. Approfittavamo. Però lentamente si è ampliato il poi, discorso. Piano piano, sì, è stato. Beh, hanno dimostrato una grande tenacia. Per fare prove, organizzarsi ogni settimana a costo anche dei sacrifici spesso. Certo, certo. Se stanno qui è sicuramente perché l'hanno meritato. Indubbiamente. Poi si vede, cioè io li ho visti adesso stasera e date tutto, ripeto, però in modo compassato all'inglese, è una cosa positiva. Cioè chi si esprime in una certa maniera e chi si esprime in un'altra, voi vi esprimete in questa maniera, ma date forza lo stesso. Non è che lo fate così per snob, assolutamente no. No, ma io parlo io perché poi e si parlano poco, sono abbastanza timidi, anche se lontano, è la primissima Stefano volta. Lontano, ma Stefano è molto taciturno, anche se con me stiamo io e lui da soli, poi è discorso diverso. È proprio, io sono contento di loro perché è lo stile loro, il carattere loro, forti però sempre fermi. Esatto, sì, abbastanza esatto. Freddi. Questo in un musicista io non ce l'ho questa cosa. Tu più, sei caloroso. Più emozioni forti, spesso invece loro riescono, il bello è questo. È bello, sì, certo. C'è un grande affidamento che loro hanno proprio come talento, un sound rock. Sì. Nella personalità, noi spesso ci incontriamo prima delle prove, ci facciamo spaghetti aglio olio e poi è quello, così, così si deve fare. Insomma, mica spaghetti aglio, anche fare gli spaghetti assieme, al di là degli spaghetti, è l'essere assieme che è importante. È la semplicità che c'hanno questi ragazzi che me l'ha fatti scegliere e che per me poi è stato un investimento di fatica enorme, perché l'esperienza si fa insieme. Chiaro. Tante volte devi affrontare un concetto e vederlo da varie angolazioni, perché esporre le cose non è sempre semplice. No. La comunicazione è un po' il problema forse di tutti noi oggi. Certo, no? Certo. Riuscire a parlare alle persone non è semplice. Andrea, ritorniamo leggermente indietro dal 2009. Tu hai suonato il concerto per 100 chitarre. Spiegami un momento al palazzo della Sala Petrassi di Roma. Quello è stato un... Com'è stato quel giorno? Guarda, quello è stato un altro punto di partenza, perché io ho studiato la chitarra non prestissimo come succede ai chitarristi, però da subito ho seguito delle lezioni, proprio perché ero curioso. Io approfondisco molto la teoria, anche lo studio sullo strumento in sé. Certo. Cerco di... Sei un pignolo, se so positivo del termine. Sì, ma anche lo stile della chitarra Stratocaster, c'è quello col palettone anni 70, no, che usava Gilmore Black Music, cerco il mio stile, perché la vera Stratocaster è quella del 54... Ripropone questo modello qui, anche se questa è moderna. Sì, d'accordo, però lo ripropone. E quindi ho frequentato l'Università della Musica e prima ero stato lì, diciamo, gli studenti più meritevoli venivano ingaggiati per stage, serate. E ci contattò Glenn Branca, che è simile a Rich Chatham, ha fatto opere sempre per 50-100 chitarre. Certo. Però in quel periodo ero impegnato personalmente in altre cose e non me la sono sentita, insomma. Ho capito. Quando si è ripresentata l'occasione di Rich Chatham, ho preso la palla al balzo e, aiutato dal mio maestro Simone Gianlorenzi, abbiamo studiato insieme, che lì era da imparare a memoria 75 minuti di note sul pentagramma. Cavolo. Quindi questo è un altro aspetto che io ho approfondito e che non sempre combacia con i chitarristi rock. Vero? Quindi a discapito poi magari del repertorio, nel senso che, come ti dicevo prima, approfondisco un po' tutto. Sì, ho capito. E quindi noi, qualcuno dell'Università della Musica disse: chi vuole partecipare? Io subito, sì, subito. Ti sei subito offerto. Mi sono subito lanciato perché era un'avventura nuova e ci ho lavorato diversi mesi, poi abbiamo fatto una prima prova in una scuola di musica e poi abbiamo fatto 3 giorni di prove all'Auditorium di Roma, che per un musicista è il posto più ambito, e c'ho dei ricordi incredibili anche perché si incontravano altri artisti, no? E provavamo a gruppi di 33 chitarristi. C'era un fonico, ognuno aveva la sua parte, quindi il Rich Chatham dirigeva tutto con la chitarra in mano. E c'erano 3, diciamo, sottomaestri, nel senso che coordinavano i vari gruppi. E in quell'opera, che era una prima europea, a Secret Rose, c'era anche una citazione ai Ramon. E è stata un'emozione fortissima. Sì, ottimo. È stata una grande. Quello è stato, nella mia breve storia, insomma, di musicista, spero che continuerò su questa strada, un primo punto di partenza, come dicevamo, per il disco. Quindi, poi mi è capitato di suonare con Biacchesi o con i Kang. Il bello è che non disdegno io nessuna collaborazione. Sì, mi piace imparare, mi piace. Non sono un chitarrista che quando va al concerto guarda i chitarristi. Stavamo al concerto delle Orme che ti dicevo, sì. E guardavo il batterista, il bassista, perché mi piace la musica e mi piace approfondirla. Io c'ho i dischi da Miles Davis, Iron Maiden, i Sex Pistols, Hendrix. Quindi voi musica italiana, mi piacciono le Orme, non perché siamo qui in Veneto. No, mi piace il Banco del Mutuo Soccorso, mi piace la PFM, Finardi, De Gregori, Dalla. Certo, i gang per me non hanno niente di meno di questi nomi più blasonati, assolutamente. Certo. Sia per la forma canzone, sia per il messaggio. E tornando un po' a quello dell'auditorium, è stata una grande esperienza. Sì, sì, senza decisamente. Dubbi. Salutiamo anche i tuoi amici che ti hanno... Chi ti porta il tè, qui, chi ti dà l'acqua, eccetera. C'è lo staff, è lo staff vostro. Sì, c'è la compagna di Daniele, Ilaria, c'è la mia compagna Arianna che ci appoggiano in tutte le nostre vostre evoluzioni. E poi c'è mio fratello Marco, che è il bodyguard di tutto, band manager, che ci bacchetta, viene alle prove, ci mette i voti, 2 e 3. E beh, è bello così, uno spirito di gruppo, dai, anche per questo. Sì, sì, insomma, diciamo che sopportano le nostre passioni perché... capiscono che negarcele sarebbe negarci un po' l'esistenza. Un po' come... Ok, non so, abbiamo qualche altro pezzo in scaletta? No, abbiamo finiti tutti, adesso suoniamo allora. Okay. Suoniamo. Che cosa, Andrea? Allora, dunque, prima abbiamo riproposto Terre Lontane. Potremmo proporre Fight After Fight, sì. Che nell'album è quella un po' proprio dedicata ai gang. Ai gang. È stata... me mi ha ispirato Bob Dylan, come... tipo di musica, come approccio, è una ballata, però le parole sono quello che dicevamo un po' prima, quello che ho imparato umanamente, artisticamente da Marino Severini, da Sandro Severini, da Francesco Caporaletti, piuttosto che da Verdini, in ultimo anche da Andrea May, che è stato l'artefice del missaggio. Andrea, certo. May è stato il tastierista di gang per anni, sì. E devo dire che stare a contatto anche con lui è stato un motivo di crescita. Dubbiamente. Quindi siamo contenti di suonare questo brano che è dedicato proprio ai gang. Ok. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Andrea alla Stratocaster, bisogna citarla. Stefano alla batteria e Daniele al basso, sempre Fender, anche lui, però, esattamente. Batteria, non so che marca sia, non in questo. È la batteria, e basta. È batteria, ok. Bene, parliamo di una cosa, Andrea. Come del tuo sito, è importante. Dai. Allora, in realtà io, quando parlavamo della promozione del disco, sì, ci hanno consigliato di evitare il sito perché va bene, okay, va fortissimo, insomma, Facebook. Lo parliamo sappiamo. Di Facebook, allora. E lì basta cliccare Andrea Salini e ci si rende conto subito, insomma, chi sei, del personaggio. Esattamente. Sì. E poi magari adesso io a memoria l'indirizzo MySpace non me lo ricordo, però se guardiamo il retro di una copertina, forse ce l'ho qui. Ecco, vediamo subito allora. Dal vivo, certamente. Eccola qua. Sì. Allora, www.myspace.com/AndreaSalini77. Perfetto. 77 è un album di Talking Heads. Come mai? 77 è il tuo anno di nascita, ma anche 77 è un famoso album di Talking Heads. Ma guarda, io poi so, anche il disco c'ha 7 pezzi, è stato scelto. Sì, esatto, volutamente. Per altre storie che ci ha raccontato Marino Severini durante i concerti, loro hanno scritto La più nuova dei sette fratelli. Esatto. E lui per anni in quelle presentazioni parlava dei sette re di Roma, i sette colli, sette le note, sette giorni della settimana. Quindi un po' diceva che tutti i miti vanno per sette. E io dal canto mio cerco tra gli album che acquisto piano piano originali, penso ai Kansas, ai dischi del 77. Kansas, bello, interessante. O Animal del 77 dei Pink Floyd, o Bad Reputation dei Delizzi del 77. Del 77. O Stage del 77 dei Rainbow. Devi prendere anche il 77 di Talking Heads, no? Vado un po' alla ricerca degli anni degli album del 77. Bene, bene. E okay. On Stage c'è un amico mi ha regalato anche un vinile, quello era doppio, Ronnie James Dio. Ah, compianto. grande compianto chitarrista. E vado un po' alla ricerca degli album del 76. Bene, interessante. Allora, fisicamente dove possiamo trovare il disco oltre ai concerti praticamente? Allora, attualmente è in vendita in un solo negozio perché data l'inesperienza, in realtà ho capito che per mandare in giro i negozi in Italia nella confezione del cellophane andrebbero inseriti dei codici a barre. Questo è vero. Questo forse lo faremo in una ristampa. Comunque, qua contattandomi sul Facebook o su MySpace, su Facebook c'è anche la mia mail, insomma, o su adesso sul canale eBay. Io devo dire che il disco è stato venduto, ha venduto diverse copie in Emilia Romagna, in Lombardia. Quindi mi contattavano più che altro su Facebook. Certo. E dunque il CD è venduto a 10 euro, con la spedizione, quindi arriva a 2 euro e lo ricevi a casa, insomma. Perfetto, quindi nella sua confezione originale. Abbordabilissimo. Sì, questo ovviamente essendo un disco autoprodotto, noi non ci avvaliamo ancora di manager o impresari. Ecco, come i vecchi musicisti, come nella tradizione degli Opus, giriamo. E speriamo che qualche ascoltatore del Veneto conosca un amico che c'è un pub. Certo. Perché a noi il fatto nostro è quello che diciamo prima: andare in giro sulla strada con le nostre macchinine, o col fiorino preso. Se stata abbiamo fatto il tour col fiorino della nostra amica dell'alimentari, Luana, che ringraziamo. Ci ha preso il fiorino e facevamo uno scherzo per divertire un po', perché poi l'estate carichi. Certo. E allora io ogni concerto attaccavo un bigliettino dietro e scrivevo Iron Maiden on stage, Deep Purple in tour. Bene. Arrivavamo col fiorino. Quindi se c'è qualche ascoltatore che può essere interessato a un'esibizione live, noi, come dicevi tu prima, partiamo e suoniamo anche per una birra. Certo, un certo. Panino, no? Beh, tu giustamente hai citato il fiorino, spesso e volentieri si citavano anche quei famosi quei famosi pulmini fosfacche degli anni del fili di fiori 67-68. Adesso sono ritornati di moda. Adesso sì, chi ce l'ha li ristruttura. Certo, sì. Noi in genere, se c'è un fonico, ci muoviamo con le nostre auto, certo, con mezzi certo. di fortuna. Sai, come diciamo prima, un po' un'armata Brancaleone del rock and roll. Beh, perché è bello. Sì, Brancaleone, sì, ma del rock and roll, quindi certo, esattamente. Cioè, lo spirito è quello, esattamente. C'è sta cosa un po' circense che c'è un'affinità, ne parlavamo sempre con Marino. Allora, a proposito un po' lo spettacolo live, no? Sì, a proposito degli Obo, il pezzo che abbiamo sentito prima, aveva un po' di blues, sì, hai citato ai Bob Dylan, ma un po' di blues ce l'aveva questo pezzo, non so se sei d'accordo, un pizzico di blues dentro. Ma guarda, nella musica moderna c'ha quegli stilemi lì, il primo, quarto e quinto, è una regola armonica. Esatto, sì, è una regola armonica. Dopo ho studiato io, ci hanno insegnato che l'ultima innovazione della musica del Novecento è stato il blues. Insomma. Ecco, appunto. Noi ne siamo consapevoli, poi lo confezioniamo a modo nostro. Certo. C'è chi lo fa in maniera pura, noi abbiamo una visuale nostra e comunque lui, per esempio Daniele... è affascinato da Slash, un chitarrista grande chitarrista, un po' strano ma grande, sì, chitarrista, però, leggermente strano, ma si sa che è un ammiratore di B.B. King, insomma. Sì, è vero. E noi quando suoniamo dal vivo i nostri passaggi nel blues li facciamo, insomma. Allora adesso sono le 23:52, ti proporrei un pezzo subito e poi ci salutiamo con un pezzo finale. Benissimo. Prima suoniamo un altro pezzo subito. Ok, suoniamo Rock and Roll Dreamer, che okay, va è benissimo. Il nostro album. Adesso ci stiamo preparando, come tutte le band, la Divo ci si prepara, si mette a posto la chitarra e via. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. 23:55. Ragazzi, abbiamo finito purtroppo questa cavalcata, bellissima cavalcata, e si è conclusa. Però la musica non si conclude mai, va sempre avanti. Io sono stato onorato di avervi avuto qua. Avete fatto tanti chilometri, ma avete dato tanta emozione, tanta forza, tanta grinta e tanto rock con la R maiuscola. E grazie a voi che ci avete ospitato e ci avete dato voce e spazio, insomma. Beh, è stato bello, è stato positivo, è stato interessante. Ricordiamo il vostro disco di Andrea, Dr. Hyde e Mr. Hyde, da non confondere Dr. Jack e Mr. Hyde, Dr. Hyde e Mr. Hyde, un solo, cioè una versione sola, una sola facciata, come tu hai detto giustamente, quella del rock and roll. Quella del rock and roll. Un disco che va dal rock and roll al blues, al folk, la tua musica, i tuoi elementi, come musicalmente, come ti sei sviluppato praticamente. Sicuramente, quello che, ripeto, per me e per noi è un primo passo serio, una sorta di tesi, aver fermato nel tempo quello che è stato imparato finora e da qui avere stimolo e forza per migliorare e avere sempre più personalità. quindi ci saranno altri pezzi da scrivere, da sottoporre, da costruire più avanti. Intanto suoniamo questo disco in giro per l'Italia. Esattamente. Prossime date, ne sai qualcuna? Allora sì, noi saremo il 28 di questo mese all'Abbey Road di Formello, che è un club stupendo, nuovo, dove c'è un fonico professionista, e il 30 sempre dalle nostre parti al Cinema Cursal, che è un teatro in cui cerchiamo di ridare un po' spolvero, perché... Certo. Poi saremo il 17 novembre sempre a Rieti, a Ledelbeer, che è un pub in cui si suona dal vivo. E poi abbiamo avuto altre offerte da valutare a Roma, in locali abbastanza seri, però dobbiamo mettere a punto una scaletta col tastierista che suona adesso con noi. E quindi quelle certe sono quelle che ho annunciato adesso. Certo. E poi comunque già portiamo alle spalle 21 o 22 date. E, insomma, sono poche. Per noi è fatica, perché per noi fare una serata significa 3 giorni di lavoro. Esatto. Le prove, carichi, scarichi, vai, ritorni, poi rimetti a posto. Quindi è un lavoro stancante. Bello, però poi uno deve anche fermarsi e ragionare su quello che ha raggiunto e goderselo un po' per poter poi ripartire, insomma. Certo, grazie ragazzi, è stato molto positivo, molto interessante. Suonare dal vivo su una radio sarà uno spazio piccolo, però l'energia non manca assolutamente. Grazie a voi, è stata per noi un'emozione che porteremo con noi sempre. Non credo che questi ragazzi se ne dimenticheranno. No, sarà una cosa da raccontare ai nipoti, sicuramente. E poi ci sarà un'altra occasione, Andrea. Ma speriamo, noi, ripeto, le strade le percorriamo. Le strade rock sono sempre grandi e si trovano sempre, esatto. Indubbiamente. Con cosa terminiamo, Andrea? Citando Marino, potremmo suonare una ninna nanna. Bene. Io ho preso questo suo aneddoto che ci hanno insegnato le nostre nonne. Diciamo che la suoniamo senza annunciarla. Esatto. Grazie Michele Tosoni in regia, buonanotte a tutti, domani sera con Andrea Grossi e Agostino Spolaore dalle 21. Bye bye, grazie.